faccio anch'io. So far l'amore, so cantare, a volte riesco pure a parlare, ma cosa c'è che non mi va? Vorreste in me la precisione, quella sbagliata che a me non va. Non sono Dio, ma se fossi Dio mi comporterei esattamente come sta facendo, me ne fregherei. Allora dai, va tutto male, sembra una barca alla deriva che vagheggia in alto mare. A modo mio mi faccio anch'io, sono diventato un malato, un drogato di libertà, qualcosa che non danno m'era sembrato. Non perché amo restare lì stesso su un prato a sognare, a giocare, a volare. A modo mio mi piaccio anch'io, a modo mio, ah yeah, oh no. A modo mio mi faccio anch'io, a modo mio, ah no, ah yeah, yes, alright. A modo mio capisco anch'io quando è il momento di cambiare, perché non mi sopporto più, io sono qua. La mia realtà è tutto quello che si vede, è tutto quello che mi va. Non sono Dio, ma se fossi Dio darei di più di una speranza che ormai non ce la fa più. Ma dove sei? Ma dove vai? Io sono qui che ancora aspetto, un giorno o l'altro me ne andrò. A modo mio mi sfogo anch'io, mi piace ridere, scherzare, dire ciò che non si può. Ma cosa c'è che non mi va? Saranno i miei modi di fare o sarà la mia libertà? A modo mio mi piaccio anch'io, a modo mio, I know, oh yeah. A modo mio mi faccio anch'io, sai, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh di libertà, qualcosa che non va, no.